Al Mutaffifin. I frodatori. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Wailul lil mutaffifin. Guai ai frodatori. Allazina idha ktalu 'alan nasi yastawfun. Che quando comprano esigono colma la misura. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Ma quando sono loro a misurare o a pesare, truffano. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. Non pensano che saranno resuscitati لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. In un giorno terribile. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Il giorno in cui le genti saranno ritte davanti al Signore dei mondi. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ. No, in verità il registro dei peccatori è nella segreta. E chi mai ti farà comprendere cos'è la segreta? È uno scritto vergato. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Che tacciano di menzogna al giorno del giudizio. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Non lo taccia di menzogna altri che il peccatore inveterato. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Che quando gli sono recitati i nostri versetti dice: favole degli antichi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Niente affatto, è piuttosto quello che fanno che copre i loro cuori. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Niente affatto. In verità in quel giorno un velo li escluderà dal vedere il loro Signore. Thumma innahum lasalul jahim. E poi cadranno nella fornace. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun. Sarà detto loro: ecco quello che tacciavate di menzogna. Kalla inna kitaba al-abrari lafi'illin. Niente affatto, il registro dei caritatevoli sarà nelle altezze. Wa ma adraka ma 'illiyun. E chi mai ti farà comprendere cosa sono le altezze? Kitabun marqum. È uno scritto vergato. Yashhadul muqarrabun. I ravvicinati ne renderanno testimonianza. Innal abrara lafi na'im. I giusti saranno nella delizia. Appoggiati su alti divani guarderanno. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ Sui loro volti vedrai il riflesso della delizia. يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ Berranno un nettare puro, suggellato. خِتَامُهُ مِسْكٌ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Col suggello di muschio, che vi aspirino coloro che ne sono degni. ومزاجه من تسنيم. Un nettare mescolato con tasnim. عينا يشرب بها المقربون Fonte di cui berranno i ravvicinati إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون In veri malvagi schernivano i credenti وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ Quando passavano nei loro pressi si davano occhiate وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ Ritornando dalla loro gente si burlavano di loro وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ E quando li vedevano dicevano, davvero sono fuorviati. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ Certo non hanno avuto l'incarico di vegliare su di loro. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ Oggi invece sono i credenti a ridere dei miscredenti. على الأرائك ينظرون Appoggiati su alti divani guarderanno هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون I miscredenti non sono forse compensati per quello che hanno fatto؟